Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM e anche oggi benvenuti e benvenute in una nuovissima puntata di Minerva. Oggi venerdì 22 gennaio parte questa ultima puntata della settimana di Minerva, il format di approfondimenti culturali che prende il nome appunto da una divinità romana della cultura, quindi insomma per già darci qualche indizio su che cosa parleremo questa mezz'ora di diretta insieme. Infatti saremo insieme a me, Rachele Copparoni, da mezzogiorno e mezza fino alle 13 per questa mezz'oretta in cui parleremo, come vi dicevo, di cultura, sempre ogni giorno con nuovi approfondimenti, nuove interviste che hanno a che fare con questo tema, quindi si parla di cinema, di teatro, di libri, di presentazioni, di fumetti e di tanto altro. Ascolteremo anche, come sempre, della buona musica, o almeno spero che vi piacciono le mie scelte musicali, e insomma faremo un pochino delle chiacchiere. Ma prima di entrare nel vivo di questa diretta di Minerva, di questa nuova puntata di oggi venerdì 22 gennaio, vi volevo lasciare i contatti, come sempre, come di consuetudine, con i quali raggiungerci, e partiamo proprio dal nostro numero di telefono, che è sempre quello 333 180 9494. Potete mandarci un sms come si faceva una volta, oppure anche un messaggino su WhatsApp e su Telegram se siete un po' più tecnologici, ma ormai diciamo che sono delle applicazioni che usiamo un po' tutti e tutte. E il nostro sito www.radiocittafujiko.it ancora purtroppo è in fase di down, quindi è momentaneamente fuori uso, se non per lo streaming. Quindi se uscite dai confini bolognesi o se ci volete ascoltare comodamente dal vostro computer e dal vostro telefonino, anziché accendere la radio, potete andare su www.radiocittafujiko.it e troverete il link per la diretta in streaming. Seguiteci anche sui canali social, ci troverete su Instagram, Facebook, Twitter e anche il canale YouTube. Lì rimaniamo sempre attivi con tantissime novità sui nostri servizi che mandiamo in onda, quindi tutte le interviste di attualità, di politica, di cultura e di musica, perché ovviamente in una radio non si può non parlare anche di musica. E oggi invece di che cosa parleremo in questa nuova puntata di Minerva? Sono molto contenta perché finalmente torno di nuovo a parlare di fumetti. Sapete che ogni tanto mi piace inserire un'intervista, un approfondimento che riguarda il mondo delle graphic novel e dei fumetti, e oggi parliamo veramente di due pezzi da 90 del mondo dei fumetti, perché dopo Relazioni pericolose, l'albo che aveva testimoniato il primo incontro tra Dylan Dog e Batman, e anche tra i rispettivi cattivi, ora è arrivato il momento di Barry Allen, conosciuto meglio come Flash, e Zagor. Sono due eroi che da oltre 60 anni intrattengono tutti i lettori e lettrici veramente di ogni età, con storie epiche, ricche di colpi di scena, con disegni meravigliosi, mozzafiato, incredibili misteri, e finalmente si sono uniti. Infatti è avvenuta da poco questa unione tra il mondo di Flash, quindi della DC Comics, e il mondo di Zagor, quindi della Sergio Bonelli Editore, che hanno creato insieme questo numero zero dedicato proprio a questi due fantastici supereroi. Ha debuttato appunto in fumetteria già da qualche giorno e anche sullo shop online della Sergio Bonelli Editori questo fantastico team up proprio realizzato da Zagor e Flash, che ci condurrà nel cuore della foresta di Darkwood, quindi la famosissima foresta in cui avvengono tutte le avventure di Zagor, però in una prospettiva del tutto inedita, del tutto diversa. E ne ho parlato con Giovanni Masi, uno dei due sceneggiatori appunto che hanno scritto questo numero zero di Flash e Zagor. Giovanni Masi non è da solo, perché ha collaborato anche con Mauro Uzzeo, che appunto insieme hanno realizzato la sceneggiatura di questo numero zero, che si intitola La Scure e il Fulmine, proprio per rappresentare i due personaggi. Quindi La Scure è Zagor ovviamente, e il Fulmine è è flash, neanche a dirlo, ecco. Ma poi ne parleremo molto meglio grazie appunto all'intervista realizzata a Giovanni Masi, che ci ha raccontato da ancora più vicino com'è avvenuta l'unione di questi due meravigliosi supereroi. E visto che oggi è una puntata tutta dedicata al mondo dei fumetti e dei supereroi, anche per quanto riguarda la musica non potevo, come dire, tirarmi indietro, e quindi ci riascolteremo, anche se già l'avevamo fatto qualche giorno fa, di nuovo delle canzoni provenienti dal Low Sound Mix volume 1, che è il CD creato ad hoc apposta per il film Guardiani della Galassia. Guardiani della Galassia è un film conosciutissimo della Marvel Studios, pubblicato, che è uscito diciamo nel 2014 nelle sale, e appunto ha una grandissima colonna sonora formata da tutte le canzoni presenti nel Walkman di Peter Quill, che è appunto il protagonista dei Guardiani della Galassia. Lui è molto attaccato a questo Walkman, con tantissime canzoni al suo interno, e io ne ho scelte due, tutte canzoni molto anni 70-80. Ne ho scelte appunto due da sentire oggi come colonna sonora per questa puntata dedicata al mondo dei fumetti. Tra le tante, perché non c'è solo un volume 1 ma anche un volume 2 e un volume 3, ogni volume appunto per ogni film dei Guardiani della Galassia che è uscito nel corso degli anni. E il primo singolo che ci andiamo ad ascoltare adesso è Come and Get Your Love, singolo del gruppo musicale Redbone, pubblicato nel 1973. Come vi dicevo, gli anni sono un po' quelli anni 70-80. Ce l'andiamo a sentire subito e poi torniamo in diretta per continuare a parlare di Flash e Zagor. Yeah. ore 12:40 torniamo in diretta su Radio Città Fucico 103.1 FM dopo aver ascoltato i Redbone con Come and Get Your Love, canzone che fa parte della colonna sonora dei film Guardiani della Galassia, uscito nel 2014 per la Marvel Studios. E visto che appunto si parla di Marvel, quindi di supereroi, cogliamo proprio la palla al balzo e ci spostiamo ai supereroi che invece saranno i protagonisti di questa puntata di Minerva di oggi. Infatti, come vi anticipavo prima, debutta in fumetteria e sullo shop online della Sergio Bonelli Editore il team up formato da Zagor e Flash. Il titolo di questo album è La Scure e il Fulmine, sarà composto da 32 pagine a colori in formato 16x21 cm, quindi classico formato dell'album, insomma, che si trova in edicola, con una storia scritta da Giovanni Masi e Mauro Uzzeo e disegnata da Davide Gianfelice con i colori di Luca Saponti. Io ho intervistato Giovanni Masi, quindi uno degli sceneggiatori di questo incredibile numero zero di Zagor e Flash, che ci ha raccontato da più vicino come è avvenuto appunto l'incontro tra questi due incredibili supereroi. Il numero zero avrà anche una tiratura speciale, diciamo limitata. Sarà presentato infatti con due copertine interconnesse tra loro, entrambe firmate da Carmine di Giandomenico. Quindi se si comprano entrambe le copertine, diciamo, si possono unire e creare una bellissima mega copertina con i due supereroi come ovviamente protagonisti principali. Tra l'altro, ad arricchire l'albo ci saranno anche tante curiosità dietro le quinte del appunto di questo nuovo capitolo e delle eccezionale progetto di crossover in cui gli eroi bonelliani incontrano quelli dell'universo DC, perché come vi dicevo anche prima c'è già stato un incontro proprio tra la Sergio Bonelli Editore e la DC Comics, perché Dylan Dog e Batman si sono già incontrati anche loro in un'altra spettacolare storia. Ve ne avevo già parlato sempre qui sui microfoni di Radio Città Fucico e ora torniamo per un'altra mirabolante unione tra Flash e Zagor. Ma non mi voglio perdere troppo in chiacchiere, perché l'intervista con Giovanni Masi è molto carina da ascoltare, secondo me ci lascia tante chicche divertenti del dietro le quinte della formazione di questo fantastico duo, quindi andiamo direttamente ad ascoltarci l'intervista a Giovanni Masi. Sono al telefono con Giovanni Masi. Buongiorno Giovanni e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fucico. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Debutta in fumetteria il numero zero del team up Flash Zagor, che si intitolerà La Scure e il Fulmine. Innanzitutto, Giovanni, come si presenterà il volume? Ho visto che ci saranno anche delle curiosità, delle copertine particolari al suo interno. Sì, abbiamo creato questo numero zero in cui presentiamo la primissima parte di questa storia in cui Zagor e Flash si incontrano. L'albo si può trovare sia nelle fumetterie che sullo store della Sergio Bonelli Editore ed è un albo con doppia copertina celebrativa, ovvero c'è un'edizione scure dedicata a Zagor, un'edizione fulmine dedicata a Flash, e si possono comporre via un mini posterino se le prendete entrambi. L'interno del volume no, è lo stesso per entrambe le edizioni e c'è la presentazione appunto della storia, 20 pagine di storia, e un apparato redazionale abbastanza ricco in cui ci siamo divertiti a raccontare un po' chi sono i vari personaggi, perché Flash e Zagor sono due personaggi che hanno una storia abbastanza lunga, entrambi esordiscono negli anni uno nel 56 e l'altro negli anni 60, ed era interessante per noi anche e divertente soprattutto presentare ai vari rispettivi lettori chi era chi, e chi non li conosce nessuno dei due li può prendere e scoprire questi due personaggi che hanno fatto la storia del fumetto mondiale. Dopo Dylan Dog e Batman, appunto, ora viene l'incontro tra Flash e Zagor. Come avviene questo incontro e cosa unisce questi due eroi apparentemente distanti tra loro? Sì, l'apparentemente distanti è la prima cosa che abbiamo pensato anche Mauro ed io. Mauro Uzzeo è l'altro sceneggiatore e creatore e ideatore del numero zero della storia. Cosa unisce questi due personaggi? Sono due personaggi Silver Age è quel momento a cavallo tra gli anni 50 e 60 in cui viene ricreato un po' la magia del fumetto dopo i fasti degli anni 40, e sono due personaggi che sono in edicola adesso, Quindi sono due personaggi estremamente longevi, non hanno saltato mai un mese di presenza nelle edicole, né in America né in Italia, e hanno creato un successo internazionale, vengono stampati in tutto il mondo. E ovviamente uno è un supereroe, l'uomo più veloce del mondo, l'altro vive a Darkwood in questo western fantastico ideato da Guido Nolitta, in arte Guido Nolitta, che era Sergio Bonelli poi. Perché si incontrano? Si incontrano perché quando ci hanno chiesto di occuparci di questo crossover, i due personaggi sembravano lontanissimi un po' a tutti. Poi studiandoli, rileggendoli, perché ovviamente ci siamo documentati per poter scrivere questa storia, ci siamo accorti che sono due personaggi dal cuore grande, sono due personaggi che si lanciano sempre nel salvataggio delle persone. Faccio un esempio: Batman è sempre un po' un musone, anche nei film, no? È sempre un po' triste da quel punto di vista. Flash e Zagul sono due personaggi che aiutano chi è in difficoltà col sorriso. Flash poi mi fa morire a me perché ti porta la pizza dopo per curarti dallo shock, perché è così veloce che ti salva e ti porta la pizza. E Zagor è la stessa cosa, è un personaggio con tantissimi amici, delle storie enormi di rapporti proprio umani che crea con le persone che possono essere in difficoltà e che hanno bisogno del suo aiuto. Quindi ci siamo trovati con questi due personaggi che erano lontanissimi a un primo acchitto, e poi che avevano in realtà un'anima molto molto simile, proprio nel modo in cui i creatori li avevano scritti all'inizio della loro enorme odissea. E quindi è stato anche facile, anche molto divertente farli incontrare. Parecchie cose che hanno in comune, parecchie cose che dovranno fare nella nostra storia. E a proposito di creatori, tu come ti sei preparato a questo numero zero? Bella domanda, nel senso, ovviamente un fumetto è fatto da più mani, quindi ci siamo io e Mauro che facciamo la parte della storia, e poi c'è Davide Gianfelice che si occupa delle matite e Luca Saponti dei colori, con la supervisione di Emiliano Manmocari. Ognuno di noi ha cominciato a studiare i personaggi da vari punti di vista. In particolar modo io e Mauro io ero molto più forte su Flash, l'avevo letto più a lungo, e Mauro è uno zagoriano di ferro, quindi per chi conosce Zagor sa che ha un gruppo di lettori molto forti, molto attenti, che lo seguono negli anni, e Mauro è uno di questi. Quindi ci siamo scambiati i personaggi, lui si è dovuto rileggere Flash, io mi sono dovuto rileggere Zagor per rimetterci, insomma, tutti e due sullo stesso binario. Davide Gianfelice invece ha dovuto ristudiare i personaggi. Davide aveva già disegnato Flash per l'America, era uno dei disegnatori ufficiali di Flash per l'America, quindi si è un po' più avvicinato a Zagor, ed è stato estremamente divertente, perché sono due personaggi dai cattivi stranissimi, dalle avventure sempre sopra le righe. Quindi è stato, da una parte, insomma, importante come lavoro di documentazione, perché comunque sono personaggi che stanno lì dagli anni 60, ce n'è di roba da leggere, ecco. Dall'altra, molto divertente, perché tutto lo staff si è orientato al cercare di trovare il modo migliore per raccontare questo incontro, rispettando i due personaggi. Non abbiamo voluto stravolgerli, non troverete uno Zagor diverso da quello che trovate tutti i mesi in edicole, non troverete un Flash diverso da quello, se leggete Flash, oppure da quello della serie TV, se magari lo conoscete dalla serie TV o dai film, insomma. Quindi abbiamo lavorato di documentazione per però poi creare una storia che fosse la più naturale possibile, una buona storia di Flash, una buona storia di Zagor. Poi sta ai lettori decidere se ci siamo riusciti o meno, ma di certo è stato molto molto divertente la lavorazione fino a questo punto di questa storia. Perfetto Giovanni, io ti ringrazio e non vediamo l'ora di vedere le prossime avventure di questo incredibile duo. Grazie ancora. Grazie Rachele, grazie a tutti. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. If I can for sure, all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone. Keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in. E sulle note finali di Hooked on a Feeling torniamo in diretta con Minerva qua su Radio Città Fujiko 103.1. Questa era un'altra delle canzoni sempre contenute all'interno della colonna sonora dei film Guardiani della Galassia, pubblicato, uscito insomma per la Marvel Studios. Loro erano i Blue Suede, penso si pronunci così, perché in realtà sono una band pop rock proveniente dalla Svezia, scusate, quindi non so bene come si legga il loro nome. Comunque, band anche loro degli anni 70, erano attivi infatti tra il 73 e i 75. E fu proprio questa canzone, la riedizione di questa canzone, che li ha portati al successo nelle classifiche internazionali e appunto li ha portati anche all'onore delle cronache proprio nel 2004, quando il brano è stato appunto inserito nella colonna sonora del film Guardiani della Galassia. Tra l'altro questa canzone, che è stata poi registrata nel 74, quindi nel 1974, è stato proprio in quel momento che è stato aggiunto alla canzone la parte iniziale, no? Questo canto di voci maschili, uga chaka uga chaka, insomma, adesso perdonatemi, non sono proprio una cantante, comunque è stata proprio l'idea di questa band svedese a inserire questo famosissimo ritornello, intro più che ritornello, perché si trova appunto nella parte iniziale della canzone ed è forse anche la parte che più si ricorda nel corso degli anni proprio di questo grande successo internazionale. Ma voltiamo pagina e dalla musica torniamo a parlare di cultura con la nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi di oggi, venerdì 22 gennaio. E partiamo da una diretta Facebook. Oggi alle ore 17 ci sarà Dacia Maraini, che presenterà il suo libro Trio. Questo incontro fa parte del terzo incontro della rassegna Remote Pagine a cura della Biblioteca Antonelliana di Senigallia. Incredibile, ma vero? Sono riuscita ad inserire un appuntamento di Senigallia, la mia città natia, anche tra appunto l'agenda degli appuntamenti bolognesi. Ma come dico ormai quasi tutti i giorni, le dirette online, che siano su Facebook, Zoom, Meet, insomma dovunque uno voglia, ci danno almeno la possibilità di raggiungere degli eventi anche distanti tra noi, e quindi mi sembrava carino inserire anche un evento marchigiano doc come me. Il PC, le rivoluzioni e il socialismo, questo è il nome dell'evento che si svolgerà oggi, organizzato dalla Fondazione Gramsci. Basterà seguire la diretta su fondazionegramsci.it o sulla loro pagina Facebook. Ci sarà una lezione di Donald Sasson organizzata in occasione del centenario della nascita del Partito Comunista Italiano. Mentre dalle ore 18 alle 19 l'Istituto di Cultura e Lingua Russa organizza l'evento Il Puskin Licenzioso, a cura del professore Cesare De Michelis. Inizio dell'attività culturale 2021 proprio con una lezione del professore De Michelis, slavista e filologo molto apprezzato, che parlerà di un aspetto meno conosciuto dell'opera di Puskin. E dalla Russia ci spostiamo alla Spagna, perché l'Hispania Cultura organizza dalle 19 alle 20:30 l'incontro per il libro del mese sul loro profilo Facebook. La scelta di un nuovo libro diventa il pretesto per intavolare una discussione o semplicemente uno scambio di opinioni su un autore e la sua opera, tutto sempre in lingua spagnola e condotto da una persona appassionata dell'autore. Quindi spagnoli o amanti dello spagnolo in ascolto, questo potrebbe essere un evento che fa per voi. L'incontro girerà attorno al romanzo dello scrittore Juan Marsé, e il titolo del romanzo è Últimas Tardes, che anche qua con lo spagnolo andiamo male con la pronuncia. Comunque, per partecipare a questo incontro non serve la lettura obbligatoria dell'opera proposta, anche se viene consigliata per essere coinvolti più direttamente. E concludiamo la nostra agenda degli appuntamenti con l'ultimo evento Porta Pratello, uno spazio di condivisione e mutualismo, un progetto di cultura e solidarietà nato da Arci Bologna. Organizza oggi alle 17 un incontro per i più piccini dal titolo Macchie di colore, l'atelier della creatività, uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni per creare e divertirsi insieme a materiali organici e artistici. E così si conclude anche oggi la nostra agenda degli appuntamenti per tutti quegli eventi che riguardavano appunto la giornata di oggi, venerdì 22 gennaio. E che dirvi, siamo giunti alla parte dei saluti, la parte finale della nostra puntata di Minerva, ma torno perché poi da sola sono, quindi torno lunedì prossimo sempre da mezzogiorno e mezzo alle 13, sempre qua in diretta su Radio Città Fujiko 103.1, quindi vi aspetto sempre sintonizzati. E anche sul 333-180-9494 se volete mandarmi un messaggino di saluto finale. Intanto vi auguro un buon pranzo, una buona giornata e oggi anche un buon fine settimana che è ormai alle porte. A risentirci a lunedì prossimo. Un saluto a tutti e a tutte, ciao. Il ritorno di Minerva con Rachele Copparoni, una cultura che è sempre titolare e mai di riserva. For loving you. If loving is too much.